Le scintille universali non nascono per caso, sono lacrime di un sogno che la fede ha trasformato in cristalli di luce di Dio. Un amico, una carezza, uno sguardo, una dolcezza, un risveglio, una parola, la mia anima già vola e dal cielo si butta. Sussurrata che sfiora l'aurora e i carri disegnati su-